Il voto greco ieri poteva dare un indirizzo all'eurocrisi di accelerazione tragica, bisogna usare questo aggettivo sia pur con circospezione, e invece i greci hanno, non so quanto a malincuore, ma seguito esattamente il consiglio energico, per così dire, che è venuto dal cancelliere tedesco Angela Merkel. Quindi i greci hanno dato la maggioranza assoluta in Parlamento, sia pur di poco, esile, però la maggioranza rispetto a 151, 168, 169 voti alla somma di parlamentari di Nea Demokratia, che ha vinto andando prima rispetto a Syriza, e anche questo è importante, e a cui si somma un PASOK che continua a perdere voti al 12%, però i due partiti da soli già fanno una maggioranza, quindi i due partiti che hanno contratto gli impegni con l'Europa. Come si è capito, a questo punto si apre la possibilità di attenuare i tempi degli impegni di rigore che la Grecia aveva contrattato nel memorandum con la Troica, il Fondo Monetario Internazionale, oltre alla BCE e alla Commissione Europea, dare tempo in più, accogliendo quindi la richiesta greca, che in definitiva agli spagnoli è stata concessa una procedura meno urgente, meno gravosa, meno umiliante anche dal punto di vista politico. In tutto questo la Grecia va anche avanti e incontra la Germania proprio agli europei. Chissà se Kalaguris riesce a fare il miracolo di eliminare la Germania dagli europei di calcio, questo non lo so, ma in ogni caso il G20 di oggi e domani si apre in un'atmosfera diversa, meno bellica, meno di guerra, meno tragica di quello che sarebbe stato nel caso in cui i greci avessero fatto la scelta invece di levare la maggioranza, come avevano fatto già nel secondo voto pochi mesi fa, e queste sono le terze elezioni in 2 anni e mezzo, se avessero deciso di levare la maggioranza i partiti che avevano contratto gli impegni con l'Europa.